Salvadanaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salvadanaio, ultima puntata della settimana, e abbiamo scelto un tema non tanto per deprimervi naturalmente, ma ci è sembrato così utile ritornare su una questione che per la verità affrontiamo abbastanza frequentemente. Non riusciamo a stare lunghi periodi senza parlare di prestiti e di credito al consumo. L'ultimo spunto ce l'ha offerto il ministro dell'economia Giulio Tremonti, che nei giorni scorsi ha richiamato per l'ennesima volta le banche a fare il loro lavoro, erogare credito ad imprese e consumatori, e farlo possibilmente abbassando i tassi, perché in Italia si praticano i prestiti a tassi superiori al resto d'Europa. L'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, si è prontamente difesa, dice che non è affatto vero, sostiene anzi che il costo dei finanziamenti in Italia è addirittura inferiore a quello della media europea e che gli istituti stanno facendo del loro meglio per sostenere la ripresa. Comunque che stiano aumentando gli spread, quindi i margini applicati dalle banche sui prestiti, è ormai un fenomeno arcinoto da mesi e che si è accompagnato alla contestuale discesa invece dei tassi di riferimento europei. Tutto questo dunque stamattina sarà l'oggetto del nostro dibattito con Nicola Borsi, collega del Sole 24 Ore Plus 24. Nicola, bentornato da noi. Buongiorno Deborah. E bentornato anche a Roberto Anedda, direttore marketing Mutui Online e Prestiti Online. Questa mattina quindi ti così abbiamo invitato nell'altra veste, ma anche se poi il tema del mutuo naturalmente non mancheremo di affrontarlo. Roberto, bentornato. Grazie, un saluto agli ascoltatori. Vedo già che gli ascoltatori bussano al nostro centralino, anzi chiamano 800 24 00 24, il numero verde appunto che vi dà l'opportunità di raccontarci se volete un caso nel quale vi siete imbattuti, insomma qual è la percezione che avete del costo del prestito che avete sottoscritto, naturalmente rivolgendoci alle famiglie. Probabilmente il monito di Tremonti era fondamentalmente rivolto al settore imprenditoriale e quindi alla mancanza di sostegno finanziario che in questo momento la banca, di cui in sostanza viene ritenuto colpevole il sistema bancario appunto in questo momento. Noi ovviamente, come facciamo spesso a Salvadanaio, focalizzeremo maggiormente la nostra attenzione sui prestiti alle famiglie, ma comunque dibattito aperto se vorrete anche all'altro versante. Il numero verde ve l'ho ricordato, ci potete scrivere anche al 349-238-6666. Intanto un'occhiata alla borsa che oggi ritorna a raccontare buone notizie, perché dopo i cali di ieri, che erano seguiti a 3 giornate consecutive invece di rialzi, oggi la borsa riconferma il suo trend positivo. Abbiamo un rialzo di un punto a Parigi e Francoforte, Londra più 0,59, Milano più 1,17%. Tra l'altro oggi non abbiamo dei dati economici di particolare rilievo in attesa dagli Stati Uniti. Wall Street sarà chiusa per festività lunedì prossimo, per cui abbiamo di fronte a noi un lungo ponte. In tutto questo il dollaro continua a scendere sull'euro a 1,3960, abbiamo un rapporto di cambio questa mattina, il petrolio è 61 dollari, e a Milano sta volando Mondadori più 8% e CIR più 5,16%. Per la verità sta andando bene, probabilmente la spinta è determinata da questo. Tutta la galassia De Benedetti, l'Espresso più 13% e CIR, vi dicevo appunto, più 5. Abbiamo un rapporto positivo di una casa di investimento, di Bank of America, che giudica in particolar modo i titoli. L'Espresso addirittura ha radicalmente modificato il suo giudizio da sell, cioè a vendere, a buy, comprare, per cui addirittura insomma un cambio di opinione molto drastico che però stamattina spinge tutto il settore. Anche Davide Campari ha un giudizio positivo di una casa di investimento e JP Morgan, il gruppo guadagna il 2,78%. E poi abbiamo un più 2,7% su Atlantia, su Prismian, STM più 2,54%, Bulgari più 2%, Impregilo, Buzzi Unice, mi rialzo di quasi 2 punti percentuali. Perde lo 0,8% Ansaldo, Fiat in attesa di capire se potrà mettere le mani su Opel, meno 0,8%, Luxottica meno 0,6%, Pirelli meno 0,35%. Poi abbiamo un po' di debolezza su Tenaris, perché le controllate venezuelane sono state nazionalizzate dal governo, lo ha fatto sapere il presidente Hugo Chavez, ma insomma il titolo ne risente sentiva un po' di più in apertura, perdeva un punto, adesso invece ha limitato il danno allo 0,29%. L'ultima notizia che vi voglio raccontare è che c'è stato un altro fallimento bancario negli Stati Uniti, da qualche tempo non ne parlavamo, invece a quanto pare ancora questa emorragia, in sostanza, consideriamola da questo punto di vista, non si è arrestata. Si tratta del fallimento di Bank United FSB, è un istituto che ha sede a Coral Gables in Florida, e si tratta del 34esimo caso di insolvenza di un istituto garantito dall'Agenzia Federale di Garanzia sui Depositi negli Stati Uniti. Quest'anno è il più grande nel settore bancario bancario nel 2009. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, ritorniamo sui prestiti e sentiamo un po' qual è stato l'oggetto del, chiamiamolo così, battibecco dei giorni scorsi fra il ministro Tremonti e il presidente dell'ABI, Corrado Fassola. Io ho un suggerimento per alzare un po' l'indice di gradimento dell'industria bancaria. Allineare un po' di più i tassi italiani con i tassi europei. Un pochino. Questo l'invito del ministro Tremonti alle banche italiane. A difesa del sistema bancario, però, è intervenuto il presidente dell'ABI, Fassola. Dati in nostro possesso che si riferiscono al mese di marzo, sui nuovi prestiti fatti all'economia, i tassi applicati dalle banche italiane sia per i finanziamenti alle imprese di importo inferiore a un milione di euro, sia per quelli sopra, risultano inferiori di 20 basis points ai tassi medio europei. Quelli fatti alle famiglie in conto corrente risultano addirittura 2 punti percentuali sotto. Un botta e risposta che vede dunque coinvolte sia le imprese, che tuttavia secondo l'ultimo osservatorio ABI godono già di tassi ai minimi, che le famiglie, considerato che l'acquisto a rate ha ormai conquistato tutti. Tanto che rispetto al 2007 le famiglie si indebitano di più, con una crescita dei prestiti personali sottoscritti per varie finalità pari a più 1,4%. Ma ad aumentare, appunto, oltre alle richieste, sono anche i tassi applicati ai finanziamenti. Rispetto a marzo 2007, infatti, il TAEG, cioè il tasso di interesse complessivo applicato ad un finanziamento, è aumentato in media del 19,5%, passando, secondo i dati di Osservatorio Finanziario, da quota 9,67% all'attuale 11,5%. Un incremento che oltretutto contrasta con l'andamento ribassista dei tassi BCE ed Euribor, a cui sono agganciati gli interessi percentuali. Come si passa dal tasso di finanziamento base della Banca Centrale Europea, pari all'1%, a interessi a due cifre incassati dagli istituti per televisioni e elettrodomestici, ma anche più semplicemente da mutui sulla prima casa che superano il 6%? Districarsi nella giungla dei tassi di interesse attivi, cioè quanto pagano le famiglie italiane per i prestiti bancari, continua ad essere un'impresa estremamente difficile. 800 24 00 24. Allora oggi cerchiamo di districarci in questa giungla dei prestiti. Nicola Borzi, allora mi pare che stiate preparando una pagina per Plus 24 che sarà in edicola domani, anche su questo tema, non esattamente questo, però insomma un confronto con quello che succede all'estero mi pare che lo abbiate fatto. Sì, noi abbiamo fatto un'indagine per capire com'è la situazione delle banche estere che operano in Italia, perché i segnali che ci arrivano dal mercato del lavoro bancario sono segnali molto preoccupanti. Ci sono 1200 tra esuberi già dichiarati e dipendenti a rischio, con alcune importanti istituzioni che hanno deciso di ridurre o addirittura chiudere definitivamente le loro filiali in Italia. Ma non ci siamo limitati a questo, perché abbiamo cercato di capire se è vero che in Italia le banche estere, oltre a importanti novità di prodotto, hanno portato anche una maggiore convenienza sui prodotti già esistenti. E per far questo abbiamo consultato il database di mutui online e prestiti online, che qui oggi è rappresentato da Roberto Nedda, andando a vedere quali sono le migliori offerte su prodotti di mutuo e prodotti di finanziamento a 5 anni tra le banche italiane e quelle estere. In realtà quello che emerge è un quadro di livellamento dove grosse differenze in termini tanto di tassi quanto di TAEG e dunque di rata finale non ce ne sono. Dal che ci è sembrato di poter affermare che in realtà, se le banche estere in Italia hanno portato sicuramente innovazioni di prodotto importanti, ad esempio i conti di deposito online, è inutile citare il nome più noto del settore, o i mutui solo il colore ed è un po' vagamente arancione, esatto o i mutui per la prima casa fino al 100% del valore dell'immobile, è altrettanto vero che le banche estere, arrivando in Italia, non hanno, come dire, ridotto il costo per l'utente finale, ma si sono adeguate all'andamento del mercato nazionale incassando rispetto all'estero degli spread maggiori. Ecco, ma Nicola, ma la percezione è che magari per la medesima categoria di prestito è vero quello che dice Tremonti, adesso lo ribadisco, Tremonti si riferisce soprattutto al credito all'impresa, però per la medesima categoria di prestito il tasso applicato in Italia, quello applicato per esempio in Francia piuttosto che in Germania, ti risulta che sia decisamente differente? Allora, io ho fatto delle ricerche per documentarmi e devo dire che su questo è molto difficile trovare delle analisi comparative internazionali. Non esistono dei panieri di riferimento. Perché, come dice Deutsche Bank in una ricerca del 16 aprile di quest'anno, misurare l'integrazione del mercato del retail delle banche in Europa è molto difficile, semplicemente perché non esistono delle misure standard nei vari paesi. E questo è un tema che anche l'ABI ha sempre contestato, sostenendo che i prodotti venduti in Italia hanno caratteristiche che li rendono non comparabili con i prodotti esteri. Però c'è una ricerca, per quanto abbastanza datata, della Banca Centrale Europea che dice che in realtà i tassi si sono mossi verso una, diciamo, riduzione delle differenze nei principali mercati europei, ma l'Italia rispetto ad altri mercati mantiene degli spread molto più alti, anche se, va detto, non sul mercato dei crediti, del credito alle piccole e medie imprese, ma sul mercato del credito alle famiglie. Ad esempio, nel credito al consumo, nel 2006, alla fine del 2006 rispetto al 2003, gli spread erano calati in Italia, ma rimanevano molto più alti rispetto alla media dei paesi europei, e questo riguardava sia il credito al consumo sotto l'anno che il credito al consumo da 1 a 5 anni. Per esempio, casi di spread sotto l'1% anche nei momenti migliori nel nostro paese li abbiamo visti con grande difficoltà, mentre credo che invece negli altri paesi d'Europa ci si fosse andati al di sotto di questa percentuale con un po' più di facilità. Roberto Anedda, allora intanto volevo chiederti così un commento rispetto a questo di nuovo ritorno di paragone fra quello che accade all'estero, tra l'altro una questione che era stata posta prepotentemente all'attenzione dei consumatori qualche anno fa, quando in realtà parlavamo fondamentalmente del costo dei conti correnti e noi eravamo veramente la maglia nera d'Europa, ci siamo tenuti appiccicati questa maglia addosso a lungo tempo. Qualcosa poi è cambiato, adesso invece ritorniamo a parlarne per questa differenza appunto che registra il nostro paese relativamente ai prestiti. Cosa pensi di questa questione legata a quello che accade nel nostro paese rispetto al resto d'Europa, denunciata di nuovo questa settimana, e cosa racconta l'Osservatorio dei Prestiti Online in questo momento su cosa stanno puntando come orientamento del prestito, su cosa stanno puntando le famiglie italiane, cosa serve indebitarsi in questa fase? E diciamo che per quanto riguarda il confronto con l'estero e le condizioni che ci sono in Italia, i punti principali da tenere presente sono che soprattutto sui mutui negli anni scorsi c'era stata una prima ventata di competizione partita effettivamente dall'arrivo di diversi istituti esteri, che poi aveva contagiato anche più istituti bancari italiani. Ovviamente stiamo parlando della situazione pre-crisi, cioè quella in cui il mercato era assolutamente positivo, il costo del denaro cominciava a salire, ma non poi ai livelli che abbiamo visto nell'ultimo anno, e effettivamente, come dicevi tu poc'anzi, si cominciavano a vedere diverse offerte anche con spread per i mutui sotto l'1%, soprattutto, va detto, da parte di banche straniere, anche se non solo. La crisi ovviamente ha cambiato completamente lo scenario e ha portato tutte le banche a aumentare gli spread. Alcune li hanno addirittura più che raddoppiati, altri li hanno aumentati solo, tra virgolette, magari di mezzo punto, ma comunque adesso la media è sicuramente spostata verso l'alto, sopra l'1 addirittura, come spread medio abbondante, siamo intorno all'1,40. Sì, guarda, gli ascoltatori denunciano 2% ormai ovunque. Sì, esatto. Noi infatti diciamo tutti sicuramente sopra l'1, e quindi i migliori già sono intorno all'1, l'1,20, l'1,30. Le medie sono sicuramente sul punto e mezzo circa, ma appunto con il raddoppio degli spread alcuni istituti sono passati addirittura oltre il 2. In questo ovviamente influisce, su questo ovviamente influisce anche quella che è la situazione del singolo istituto, quindi non solo per il prodotto mutuo nello specifico, ma in generale per una rigidità, crisi di bilancio e cose simili, e dei riequilibri necessari che portano anche a decidere se fare o non fare mutui, o nel momento in cui li si vuole offrire, li si può offrire però solo a quei livelli, non per approfittarne o per guadagnare di più, ma proprio l'istituto valuta commercialmente di non riuscire in maniera diversa, certo. Da questo punto di vista ovviamente la scelta del consumatore dovrebbe andare verso le banche, che di volta in volta fanno gli spread migliori. Ovvio, non ci sono più gli spread di una volta, però anche in questa fase è possibile avere differenze anche di oltre un punto, che dal non punto è di vista poco. Della rata sono... Mi volevo intromettere in questa considerazione, tornando a quello che diceva prima Nicola sulla questione del livellamento dell'offerta praticata dalle banche straniere, che sono arrivate non da moltissimo nel nostro paese, ci sono poi tra l'altro non moltissimi istituti, ma quando all'inizio avete cominciato ad intermediare anche i loro prodotti, i primi approcci quali erano? Comunque loro avevano il desiderio, la voglia, la possibilità di offrire delle proposte commerciali più allettanti e poi per... No, sicuramente. Cioè il loro successo iniziale è stato proprio il fatto che per diversi motivi, per l'istituto che aveva una minore struttura di costi, maggiore efficienza, maggiore aggressività commerciale, e quindi questi vari istituti hanno potuto nel tempo, negli anni fino al anche il 2007, inizio del 2008, applicare spread per quanto riguarda i mutui, ma poi potremmo parlare anche del credito al consumo, sì, più ridotti, e quindi approfittare invece di una maggiore rigidità da parte di molti istituti italiani. Nel momento in cui si è complicata la situazione finanziaria generale e quindi poi dei singoli istituti, tra l'altro parliamo di istituti esteri che quindi hanno, diciamo, dipendono da case madri cosiddette, che in altri paesi possono avere situazioni diverse o anche peggiori e quindi poi definiscono quella che è la politica del credito per tutte le loro filiali, diciamo così, o comunque le loro controllate nei vari paesi europei. Quindi purtroppo la portata della crisi fa sì che a volte ci sia anche una confluenza, una comunicazione di crisi che arrivano da altri paesi o che si sentono di più in altri, sì, e questo quindi ha portato a un maggiore livellamento delle condizioni. Ci sono comunque anche banche che fanno spread bassi e in questo caso ne troviamo anche di italiane, va detto, però sicuramente le differenze sono minori. Sulla questione più generale del come si possano spiegare tassi così più alti, non solo di mutui ma soprattutto sul credito al consumo, dove vediamo anche tassi a doppia cifra spesso, a fronte del costo del rifinanziamento da parte della BCE dell'1%, qui va detto che non è che la BCE dà alle banche, agli istituti di credito, il denaro all'1% così come se niente fosse, uno si presenta e gli danno tutti i soldi che vuole. Vengono dati dei soldi contro deposito in garanzia di tutta una serie di titoli, che poi non possono essere qualunque tipo di titoli, sì, ci sono determinate categorie, quindi se io voglio, dico una cifra a caso, 100 milioni di euro di fondi da parte della BCE, mi devo presentare dalla banca centrale con degli asset in garanzia. Devo presentarmi con degli asset in garanzia che sono più che proporzionali, quindi potranno essere l'80%, mi daranno l'80% a fronte di un 100 milioni di titoli di Stato che io porto. Se sono altre obbligazioni o mutui cartolarizzati, varranno ancora meno. E quindi eventualmente un prestito mi costerà di più. Mi costerà di più, certo. O comunque l'entità di quello che io posso ottenere dipende anche dall'entità di titoli che io sono in grado di portare, e quindi le singole banche non è che hanno, esatto, la stamperia di titoli di Stato che possono portare. È un meccanismo molto complicato, Nicola. Sì, io poi vorrei sottolineare che su questo, come ricordano anche le cronache recenti, c'è una notevolissima differenza tra le diverse aree del paese. Ci sono zone d'Italia dove l'accesso al credito è sostanzialmente più semplice per una serie di motivi, e ci sono zone, segnatamente il Mezzogiorno e le isole, dove specialmente per le piccole e medie imprese l'accesso al credito non solo è molto più difficile in termini di garanzie richieste, ma anche paga dei tassi di interesse che sono nettamente superiori alla media nazionale, e su questo fanno fede le statistiche di Banca d'Italia. Allora, cominciamo a sentire i nostri ascoltatori, poi tra l'altro con Roberto abbiamo in sospeso anche le finalità dei prestiti erogati e richiesti. Cominciamo però con i tassi applicati, visto che da questo siamo partiti. Luca da Milano è il nostro primo ascoltatore di oggi, benvenuto. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Ho ristrutturato casa. Sì. Io e mia moglie avevamo un piccolo gruzzoletto da parte e come succede credo nel 100% dei casi, da un budget stimato si sfora. Non me lo dica Luca che devo, ristrutturare, non mi metta già questo no, pensiero. Siamo arrivati a dover chiedere alla nostra banca, che certo, abbiamo da anni, quello che mancava. Un prestito, esatto. Diciamo non con l'acqua alla gola, ma comunque costretti a non doverci sbattere, tra virgolette, scusate il termine, a destra e a sinistra, anche perché lavoriamo tutto il giorno, siamo molto impegnati, abbiamo chiesto 15.000 euro di prestito, appunto per far fronte a queste spese. Rimborsabili in quanto, Luca? In 36 mesi, con un tasso finale del 10,52. Se volete vi faccio anche il nome della banca. La vedo già scritta, perché credo che l'abbia detto alle nostre centraliniste. Sì, comunque insomma la più grande banca italiana, la seconda forse adesso, Banca Intesa San Paolo. L'unica precisazione, quando poi vai a chiedere il prestito, loro ti dicono: non siamo noi che eroghiamo direttamente il prestito come banca, ma ci affidiamo a una finanziaria. Sì. Comunque noi siamo utenti di quella banca. No, questo su questo fatto di Banca Intesa, loro hanno Neos all'interno, non mi ricordo. Vabbè, adesso Luca ci pensiamo anche su questo aspetto. Quindi, insomma, il suo dubbio qual è? Che il tasso sia un po' troppo alto? Come? Il dubbio qual è, Luca, il suo? Che il tasso sia un po' troppo alto? Sì, è un tasso eroso. Va bene, adesso guardiamo le nostre statistiche, le percentuali. Beh, certo, quelli intermediati, vedo dei prestiti, adesso non so di quanto, 20.000 euro per una rata mensile di 608 a 36 mesi, un prestito che intermediato da Mutui Online può costare il 6%, per cui qua forse il dubbio di Luca è anche legittimo. Salvadanaio, il tema dei prestiti, di nuovo questa mattina lo spunto è stato questa contrapposizione che si è consumata nel corso della settimana fra il ministro dell'economia Tremonti, che ha detto alle banche: continuate a fare il vostro lavoro, erogate credito alle imprese e ai consumatori, però cerchiamo anche di cominciare a farlo a tassi più bassi, perché ancora l'Italia si conferma come il paese che applica i tassi più alti d'Europa. Le banche rispondono che non è vero, che anzi il trend è stato all'insegna della discesa negli ultimi tempi, di fatto per ancora qualche incongruenza la registriamo fra i consumatori. Devo leggere questo messaggio a Nicola Borsi e a Roberta Nedda, perché è fantastico. Allora, a parte gli ascoltatori che dicono fate i nomi, abbiate il coraggio di fare i nomi, abbiamo appena fatto, ma proprio questo è l'ultimo dei nostri problemi. Allora, adesso sotto l'1%, ci dice un altro ascoltatore che è Roberto, di spread non se ne trovano. L'unica è stata una banca, però mi obbliga a comprare un pacchetto di azioni da tenere per tutto il mutuo. Io mi sono messo a ridere, Roberto, pure noi, quando abbiamo letto, prima di riprendere la trasmissione, il suo messaggio. Alla fine da un mio amico ho strappato uno spread dell'1%, e allora anche questi condizionamati, questi ricat, perché questo proprio, cioè, non lo vorrei chiamare in maniera diversa. Nicola, cosa ne pensi? Poi andiamo al caso dell'ascoltatore che ci ha chiamato prima. Ma cosa vuol dire comprare le azioni della banca, a patto che... Il problema del mercato del credito retail credo che sia molto semplice. Le banche hanno una struttura commerciale che prevede il raggiungimento di target su determinati tipi di prodotti che vengono venduti, che vanno dalle obbligazioni delle banche stesse ai fondi comuni di investimento, dalle carte di credito a tutto un altro genere di servizi e prodotti finanziari. Oggi come oggi, considerate le difficoltà del settore, le pressioni che una volta erano state messe sotto tiro da parte dei sindacati, le pressioni commerciali sulla vendita di alcuni prodotti da parte degli sportellisti, vendita alla quale peraltro al raggiungimento dei budget è legata una quota variabile non indifferente dello stipendio stesso degli sportellisti, aumentano e sono tornate di nuovo a crescere dopo la crisi finanziaria, tant'è vero che tutte le banche che io sento periodicamente, i sindacati mi segnalano una ripresa delle pressioni commerciali. Ora mi sembra ovvio che di fronte a una richiesta di questo genere l'unica soluzione sia quella di cambiare istituto, ma anche riguardo la segnalazione dell'ascoltatore precedente sul tasso del 10%, è totalmente fuori mercato. I tassi migliori su mutui, su prestiti da 20.000 euro per ristrutturazione di casa a 5 anni sono attorno al 6%, non riesco a capire perché un prestito con durata addirittura inferiore e una richiesta di capitale inferiore debba avere un tasso così differente. Allora, adesso Roberto vorrei sentire anche te su questo punto, però a proposito di pressioni esercitate nei confronti di un cliente che ha bisogno di sottoscrivere un prestito, vorrei sentire anche Mario da Messina, perché Mario ne ha ricevuta un'altra. Mario, buongiorno. Lei ha acquistato un'auto? Allora, io ho prenotato un'auto a febbraio, quando ancora gli incentivi della rottamazione non erano ben definiti. Sì. Premetto che innanzitutto la mia permuta non c'entra niente con la rottamazione. Sono un cliente sempre puntuale nei pagamenti e avevamo già accordato tutto quanto col concessionario. Avevo dato del contanti e 10.000 euro con finanziamento. Sì. Avevo dato il mio cedolino di azienda, il numero di telefono dell'azienda, perché dovevo... Insomma, tutto quello che doveva fare l'ha fatto. Benissimo. A un certo punto mi telefono dalla banca e mi dicono che il prestito da 10.000 euro me lo davano semplicemente se però facevo anche un'assicurazione che mi avrebbe portato un incremento della spesa di intorno a 500 euro nei 3 anni. Io mi sono letteralmente incavolato a questo punto, ho detto: ma scusate, io vi pago gli interessi, sono stato sempre, certo, non ho mai avuto problemi, vi dicendo, perché devo pagare questa ulteriore spesa? Ma come si chiama questa assicurazione, tra l'altro? Assicurazione su che cosa? Sul rischio della perdita del posto di lavoro, piuttosto che cos'è? Non, guardi, incomprensibile. Non devo essere sincero, infatti sei arrabbiato e basta, giustamente. E quindi poi ho telefonato al concessionario e ho detto di bloccare tutto quanto. Dice: ma la macchina che faccio? La ordino? No, non ordinare, sì, niente. Ora mi risolvo io il problema con i soldi e poi ti telefono. A distanza di 10 minuti mi ha telefonato di nuovo il concessionario dicendo che aveva risolto tutto quanto lui con la banca. Eh sì, bisogna. Allora, se loro ci ricattano, noi bisogna che facciamo la stessa cosa, Mario. Ci tiriamo indietro, sospendiamo tutta la trattativa, a meno che non siamo ovviamente proprio con l'acqua alla gola, e allora in quel caso riusciamo a spuntarla. Comunque, grazie Mario per la sua testimonianza. Io non dico di coraggio, perché probabilmente Mario non aveva neanche bisogno dell'auto seduta stante. È chiaro che poi lì essere in una posizione di forza a seconda delle nostre esigenze è un aspetto importante. Però, Roberto, allora, intanto per un acquisto di un'auto, tra l'altro pagata per la metà anche in contanti, il restante finanziamento ci vuole un'assicurazione accanto? Ti risulta? No, qui torniamo a quello che diceva poc'anzi anche Nicola Borzi. Le pressioni commerciali dei singoli istituti o il tentativo commerciale di aggiungere degli altri prodotti che portano dei guadagni all'istituto stesso si verificavano prima, si verificano anche adesso. Sta al consumatore, da un certo punto di vista, eventualmente aspettarseli e lasciarsi più alternative, quindi eventualmente valutare le offerte di diversi istituti, di modo che nel momento in cui ci si trova di fronte a quello che, insomma, comincia a mettere una serie di paletti aggiuntivi, dei quali magari non c'è alcuna necessità, soprattutto per un prestito così breve e così di ridotta entità, si possa appunto giocare l'arma, non dico del ricatto, ma comunque dell'alternativa, di dire, vabbè, chiamiamola trattativa un ma po' è giusto aggressiva, che sia così. Purtroppo in Italia le famiglie sono ancora poco abituate, soprattutto nel mercato del credito, sì, ci si sente sempre in una posizione di debolezza, esatto, verso la banca, e quindi bisogna recuperare questa debolezza, uno informandosi prima, cioè cercando di capire prima quello che può succedere, e soprattutto giocando tra virgolette su più cavalli, cioè valutare infatti diverse alternative, anche perché altrimenti si torna anche alla problematica dell'ascoltatore di Luca, precedente, esattamente, di Luca, che aveva bisogno abbastanza rapidamente del denaro, pertanto forse avrà potuto trattare anche poco, avrà potuto anche esplorare in maniera non veloce l'offerta commerciale disponibile sul mercato, e quindi si è trovato che questo prestito l'ha dovuto pagare il 10%. Sì, sì. C'è da dire che se vediamo i dati di Banca d'Italia, che rileva trimestralmente per le varie categorie del credito, mutui, prestiti, eccetera, i tassi medi delle operazioni anche di prestito personale sono regolarmente tra il 10 e il 13%, sto parlando degli ultimi 4-5 anni, quindi senza neanche particolari oscillazioni, non seguono quindi da presso le variazioni ad esempio dell'Euribor, ma perché sono tutti prodotti a tasso fisso sì, anche se hanno delle durate brevi, e quindi risentono meno di queste variazioni, però la media è molto elevata. Poi ovviamente sul mercato, ad esempio, lo citavate voi poc'anzi, esatto, se uno va su prestiti online trova finanziamenti di primari istituti di credito specializzati che offrono per la stessa tipologia, come la ristrutturazione casa, un tasso addirittura del 5,75%. Ma infatti del è questo 6%. Che io mi chiedo, perché la differenza è enorme. Allora significa che io devo esclusivamente utilizzare il canale online, e lo sappiamo benissimo che questo canale ci fa risparmiare su tantissimi versanti, non solo sulle erogazioni del prestito o del mutuo, ma questo vuol dire che praticamente si è diventato impossibile andare allo sportello. Può esserci una differenza di 4 punti percentuali se noi utilizziamo il canale tradizionale, Nicola Borzi? Ma sì, è vero che internet rappresenta una possibilità enorme per chiunque di comparare prodotti e servizi offerti a determinate caratteristiche. È anche vero che però non di rado ultimamente ci è toccato sentire che anche lì a volte le offerte sono di un tipo, e poi nel momento in cui ci si rivolge effettivamente all'istituto per andare a chiudere una transazione, c'è qualcuno che prova a fare il furbetto. Io non voglio citare nomi e cognomi, ma rimanere a livello generale, però è capitato anche di assistere a casi recenti di mutui nei quali, a fronte di determinati tipi di condizioni offerte anche su internet, nel momento intercorrente tra il contratto preliminare, diciamo la procedibilità della pratica di mutuo, e il closing del contratto, cioè il rogito, l'istituto ha cercato di piazzare prodotti opzionali come, guarda caso, polizze vita. O comunque lo spread nel giro di... Perché lo spread è una parte essenziale del contratto. Hanno cercato di dire che improvvisamente era cambiata una procedura per cui bisognava inserire la sottoscrizione di una polizza vita a fronte della sottoscrizione di un mutuo, che non era prevista nel documento, nel documento originale con cui si era iniziata la pratica. Quindi il vero tema è quello delle pressioni commerciali. Va anche detto che qualcuno sta vigilando, e ad esempio la Banca d'Italia sta intervenendo per quanto riguarda ad esempio i conti correnti sulle regole che sono necessarie per calcolare il TEG e il TAEG, cioè il tasso finale effettivo globale, che comprende a livello annuo tutte le voci di costo. Tra breve usciranno le istruzioni che daranno modo e obbligheranno le banche a inserire nel calcolo del TAEG, che è l'unica voce che bisogna considerare come costo finale reale di un prodotto finanziario, bene ripeterlo, anche ad esempio la commissione di massimo scoperto e tutte le voci di intermediazione che prima erano escluse e che quindi rendevano poco confrontabili e poco trasparenti le pratiche. Poi magari Nicola ci spieghi anche quante voci devono essere contemplate, anche Roberto Suolo per far tu, all'interno di questo TAEG, se ce la faccio ad andare avanti fino alla fine della trasmissione, non mi strozzo prima. Pierluigi da Siena, la voglio intanto salutare. Salve. Buongiorno. E giustamente dicevamo con Roberto Anedda, beh, come al solito lanciamo i temi di cui parlare e poi ci discordiamo strada facendo. Le finalità dei prestiti che le famiglie italiane stanno cercando in questo momento, in realtà con i casi affrontati dei due ascoltatori eravamo proprio sul pezzo, come si dice, Roberto. Sì, abbiamo avuto lo specchio della realtà, perché effettivamente poi le famiglie ricorrono a queste tipologie di prestiti soprattutto per finalità come la ristrutturazione della casa o l'arredamento della casa e l'acquisto di un veicolo, soprattutto un'auto nuova o usata che sia. Queste finalità complessivamente noi registriamo che coprano oltre il 70% dei finanziamenti erogati. Come importi medi che avevano raggiunto il picco di oltre 15.000 euro in media, ovviamente, per cui ovviamente le medie di Trilussa sappiamo come vanno, adesso stanno ridiscendendo un po'. Sì, leggermente di qualche migliaio di euro, ma più che altro perché c'è anche un ridimensionamento sulle lunghe durate, che prima ci si era spinti molto anche addirittura verso i 10 anni. E quindi adesso c'è qualche aggiustamento in più, però ovviamente si tratta di piccole variazioni. Quello che si consolida è proprio il fatto che sono soprattutto l'auto o la casa comunque le fonti, diciamo, di spesa principali per le famiglie, inevitabilmente. Sì, forse anche questo è un po' lo specchio di quello che sta accadendo nel nostro paese. Si sta un po' riconquistando la dimensione domestica, allora magari insomma il nido lo si vuole sistemare al meglio e forse per questo si cerca anche del denaro adesso a prestito per ristrutturare l'abitazione. 800 24 00 24, visto che ancora comunque i prezzi, tra l'altro, per acquistare di nuove case sono scesi, sì, ma forse ancora non in maniera soddisfacente per i consumatori, allora sì, ci si sistema insomma quella nella quale si abita già. Pierluigi da Siena, eccoci a lei, buongiorno. Buongiorno. No, io volevo portare brevemente, visto l'ora, una testimonianza relativamente al mutuo e all'affidamento dell'attività della mia compagna. Allora, partendo dall'affidamento, quando mi sono dovuto costretto a prendere, diciamo, parte in questa società, sono andato a vedere le condizioni applicate in termini di tassi, commissione massimo scoperto e quant'altro dell'affidamento. Allora, affidamento di 15.000 euro, quindi un importo medio, insomma, assolutamente esatto, ragionevole. Certo. Un volume d'affari della società superiore ai 140.000 euro l'anno, tra l'altro asilo privato, nido, convenzionato, struttura pubblica, quindi diciamo... Certo. Non proprio una scommessa in un business, esatto, del tutto stravagante, ecco, sì. Esatto, ecco, condizioni applicate in termini di tassi è 11,75%, massimo scoperto 0,250 e quant'altro. Allora, con la semplice richiesta verbale presso la banca dove ho la mia attività, è stato praticato praticamente condizioni 50% superiori anche al ribasso, chiaramente. Dopodiché, quando sono andato dal direttore, che puta caso era lo stesso istituto dove io e la mia compagna abbiamo il mutuo per la casa, ah no, ma ve lo facciamo anche noi, cioè, e non è corretto, primo punto. Secondo punto, mutuo. Quello è il mercato, però Pierluigi ci sta, insomma, ovviamente però è stato bravo lei. Il cliente, quando poi si sente essere preso in giro, rifiuti, sì, certo. Bisognerebbe avere, come dire, la possibilità di poter chiudere seduta stante il rapporto in quel momento, invece lei al mutuo giustamente deve ribaltare la sua vita, quindi non si può sempre... Bisognerebbe che questi signori, visto che il ministro chiedeva di far accrescere il gradimento della clientela dell'industria bancaria, partissero con il registro subito. Ha imparato a memoria Tremonti, Pierluigi. Quindi come si è conclusa la sua vicenda? Allora, la mia vicenda si è conclusa che al momento della portabilità del mutuo, anche a me è stato richiesto di acquistare delle azioni per avere la decurtazione immediata del 50% dello spread, quindi dall'1,50 di 8-10 mesi fa allo 0,75%. io non l'ho accettato, ho perso forse 0,25, anzi un 0,25 punti di spread, perché ho chiuso con uno spread dell'1, però ecco, quando è cambiato il direttore e vado a sottoscrivere la portabilità la prossima settimana, l'istituto bancario, mi piacerebbe fare anche il nome, perché è bene questi signori... Glielo facciamo fare, vada Pierluigi, me ne assumo la responsabilità, andiamo a sentire. Certo, la metti, la banca potrebbe essere nell'accio. Chiaro, dice no, ma ora sai, è cambiato persona, adesso si può fare. Non è giusto, signore, bisogna partire col piede corretto, è giusto, perché anch'io vendo e se mi approfitto alla prima occasione, veramente è un cliente da poco. Pierluigi, la ringrazio molto per la sua schiettissima testimonianza. Nicola, ritorniamo sempre alla questione delle pressioni commerciali o qua c'è dell'altro da sottolineare? Siamo sempre sul tema. Uno dei corollari delle pressioni commerciali è che siccome le pressioni commerciali alla lunga deteriorano il rapporto tra l'intermediario e il cliente finale, perché il cliente alla fine si rende conto che qualche cosa non è andato per il verso più corretto, uno degli strumenti che vengono utilizzati per impedire che questo deterioramento porti alla rottura del rapporto con l'istituto è il turnover esasperato del personale, specialmente del personale dirigente negli sportelli, per cui se una volta gli italiani erano abituati ad avere praticamente un partner fisso nel direttore del proprio sportello bancario, oggi ogni 3-4 anni al massimo il direttore cambia e quindi i danni che ha combinato rimangono a suo nome, ma questo signore va a decine o centinaia di chilometri di distanza e riparte da zero. E prima che riprende un po' la padronanza anche del territorio, delle persone con le quali lavorare, io immagino che anche per queste persone, poi ovviamente a noi piace molto bastonarle perché va di moda anche fare questo, ma, però c'è da essere anche un filo forse a volte comprensivo anche su questa dinamica. La questione non è di bastonare nessuno, la questione è che i lavoratori stessi all'interno degli istituti di credito, i loro sindacati, hanno più volte posto il problema dell'esasperazione dei rapporti commerciali con il cliente finale. E in alcuni istituti avevano stipulato anche degli accordi che dovevano regolare le convenzioni e l'utilizzo delle pressioni commerciali per evitare appunto situazioni diciamo esasperate. La verità è che la crisi ha portato piuttosto spesso a eludere queste convenzioni o a metterle in un cassetto, a dimenticarle, perché di fronte alla difficoltà del bilancio dell'istituto, ragione suprema di fronte alla quale tutto doveva cedere, bisognava far cassa. Enzo da Udine. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. La ringrazio. Io volevo invece andare controcorrente, perché un anno fa... Sennò sembra che siamo sempre i cattivoni della situazione. Allora, un anno fa avevo bisogno di 20.000 euro per un lavoro di ristrutturazione di un appartamento al mare. E niente, sono andato dalla mia banca, questi senza nessun problema mi hanno rilasciato al 6% questo prestito 48 mesi. E non più tardi di 2 mesi fa mi hanno chiamato loro e tengo a precisare che non sono un miliardario, sono un artigiano, quindi un deposito normalissimo, mi hanno chiamato per rinegoziare in ribasso il prestito già concesso. Enzo, ci faccia il nome, perché qua se non è che... La banca di credito cooperativo di San Giorgio Meduno è una banca piccolina, nel credito cooperativo le regole di solito visto che il cliente è anche talvolta azionista, che esiste un rapporto come dire di stretta familiarità tra l'istituto e il territorio, di solito sono un po' più Quello che mi stupisce è che molto spesso, Enzo la ringrazio molto per avercelo raccontato, è che generalmente la banca interviene in maniera proattiva quando nota che magari la rata del consumatore, del cliente, comincia a ritardare, quindi magari può intervenire direttamente se dice insomma hai bisogno che ti aiutiamo a rendere più sostenibile la tua rata, cosa rara, però può capitare. Nel caso di Enzo addirittura non è successo questo. Roberto Anedda, sì, però, in realtà insomma, la strategia, stiamo parlando di miracoli che possono accadere, sì, ma ecco. Nella realtà queste cose succedono soprattutto nel credito al consumo, perché dato che il credito al consumo ha mediamente una durata di singolo prestito breve, non certo quella di un mutuo, ma sono pochi anni, abbiamo sentito 36-48 mesi, al massimo in alcuni casi si arriva ai 120, e interesse almeno dell'istituto più previdente o comunque più così, orientato allo sviluppo futuro nel rapporto col cliente è quello di farsi gradire anche per future eventuali scelte di altri finanziamenti da parte del cliente. Quindi anche il fatto di adeguargli il tasso, magari era già verso la fine del finanziamento, però è un segnale positivo di una banca che non cerca di approfittare eccessivamente del cliente, che si ripropone, molte volte gli istituti lo fanno già di loro quando il prestito è quasi in scadenza, di dire guarda che se per caso ti serve un altro finanziamento, qualora dovessi in futuro chiederne un altro, avrai delle condizioni migliori, o comunque ti presentiamo queste nuove condizioni. In qualche modo è ovvio che c'è sempre il gioco commerciale di invogliare un po' il cliente, non dico a indebitarsi, ma comunque a utilizzare di nuovo il prestito in quanto comodità, perché se effettivamente ha visto che costa poco e addirittura l'istituto una volta futura potrebbe farglielo pagare di meno, piuttosto certo, che tirare fuori i soldi di proprio. È il mercato ed è giusto che funzioni esatto, così. Esatto, quello che dicevamo prima, trovare di volta in volta gli istituti che fin dall'inizio, per le condizioni che praticano, sembrano essere i più aggressivi, i più convenienti, con le dovute attenzioni che ci ricordava prima Nicola, proprio quindi attenti che poi all'ultimo non infilino purtroppo altre cose. Purtroppo devo chiudervi, non riesco a farti fare una conclusione Nicola né a sentire Claudio da Varese, però insomma speriamo stamattina di non aver neanche spinto tutto un travaso adesso che si verificherà verso il credito cooperativo. Loro ce ne saranno molto grati, ma magari ce lo saranno molto meno gli altri istituti di credito. Io vi rinvito presto un'altra volta, perché questo tema stamattina è stato come sempre molto interessante. D'altronde parliamo dei debiti, delle famiglie e delle nostre esigenze di tutti i giorni. Grazie Roberto Nedda, Nicola Borsi, Salvadanaio torna lunedì, buon fine settimana a tutti.